Allora, sì, sì. Sì, ti sento benissimo. Sì, sì, ciao Nathalie. Sto aspettando Giulio che un attimino l'avevo chiamato e sto passando qua. 5. Sì, sì Nathalie, comunque la passi tranquillamente. Anche qui. Sì, ti sta mettendo la portante. Ehi. Oh, giù, per carità. È una cosa penosa, è una cosa penosa questo uomo. Nathalie. Oh, dimmi. Un attimino, Che casotto. Nathalie. Oh. Sì, forse da qua se ne sarà andato lì l'imbecillotto. Se la sta mettendo. Sì, probabilmente insiste a stare qua. Lo facciamo rimanere qua, così ci fa un piacere. Oh, signor. Nathalie, scusa, dal telefono. Sì. Sì, ero al telefono che stiamo comunicando con 3-4 auto, quindi ci stiamo un po' divertendo. Ok. Ebbene, non ce la metti più la portante, che cattivo, ho visto. E se la fa addosso, tipico dei vigliacchi, Nathalie. Infatti. Oi, oi, oi, povera Italia, questa gente in giro. E dicono che sia anche bello grande, un asino grande questo. Ehi, sempre il solito, Cosa ci vuoi fare? Il mondo è bello perché è vario e purtroppo in qualunque parte del pianeta tu vai, qualcuno imbecille lo trovi sempre. Poverino, è da combattere più che da condannare, io sono sempre di quel parere, perché la vita lo ha voluto male, e quindi ma mi auguro che vediamo una nuova pensione per quello che è diventato. Vabbè Gianfrada, io mi sposto che devo fare cose, ci sentiamo alle prossime, salutami quelli che stavi parlando, ciao. Ok, te li saluto senz'altro Nathalie. Scusa se abbiamo dovuto fare tutto questo giro, ma in caso di era già tutto concordato in modo da tagliare la testa al toro. Ok, ciao, alle prossime, buona serata, buona domenica. Altrettanto, ciao. Gianfranco, ci sei? Sì, Giulio, dimmi. Sono qua, dai. No, volevo sapere com'è la situazione. Niente, ragazzi lo stanno cercando, infatti sei così gentile da metterci ancora la portante. Sono comunque in quella zona, c'è poco da fare. È un imbecillotto, anche cretino, un ignorante, guarda. Sono qua, mi copiate? Certo. Avete parlato in due, ok. Chiaro e forte. Chiaro e forte anche da me. Cioè, ma ditemi voi, ma si può essere più imbecille? Sai che oramai sei arrivato alla fine e insisti. Oi, oi, oi, povera noi. Ma sei malato mentale, basta, no, non è che... Non è nemmeno colpa sua. Sì. No, non credo, Marco.